Qui abbiamo ascoltato un pezzo del coro Consonanze di Casalecchio di Reno. Thank you. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Creatività generica. I due minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. E vai avanti. Allora, durante il tempo del comunismo. Plastica riciclata. Funziona. Funziona. Funziona. Così, stando anche leggermente larghi. Il 3 ottobre, solo nel 2024. 25, 24. Claudio perde l'1,67%. E Antonella? Prima, meno 1,7% in questo momento. Per il momento. Del disagio mentale. Giornata ancora difficile. Il professor... Sì. Allora... 990? 990. Gracias. Muchas gracias. A vosotros. Sergio, vaya. ¿No? Muy bien, sí. Parece que... ¿Qué voy a... Ah, ah, so. Che ne dici di 100? Al. Facciamo 150? Eccolo qui. Funziona. Funziona. Funziona. Facciamo 150? Va bene 150. È andata. Grazie. Se io fossi stato nel 1976. Quanto è? 490. Per 300, 600, 1200. Giornata ancora difficile. Bentornati. In questo momento. Per il momento. Mi piace. Funziona. Funziona. Funziona. È incredibile. E... Piano perché il cioccolato è molto fragile, essendo così. Mercio, mi raccomando. E Antonella illegalmente. Thank you. cucina. Appena nato sì, ma non dai camerini. Non distrarmi con bucatini. E nel dimentico di te prima di chiedere quant'è. Già finito? Era il coro Accanto al Sasso di Sasso Marconi. Sono Claire Underwood ed anch'io ascolto Coxo Spaziale. Spero che ti possa tagliare con un foglio mentre firmi per la casa nuova, e che la penna si rompa e ti sporchi il vestito che ti toglie un altro ogni sera. Spero che sia l'uomo perfetto, ma non noti se ti tagli i capelli e confonda il tuo compleanno con quello di sua madre. Vorrei che almeno un giorno a settimana l'autobus arrivi tardi. Vorrei che nella pioggia un'auto nera schizzi la tua gonna corta. Che passavo più tempo con le mani perse là sotto piuttosto che attaccata al volante di un'auto. Che facciano l'amore nelle notti in cui non sai dormire, e i resti della spesa siano tutti di rame. Vorrei non ti facessero mai male le gambe quando torni dal lavoro, ma avessi una fetta al ginocchio mentre spieghi per fare l'amore. Vorrei non ti riuscisse il colore nuovo dei capelli, ti facesse incazzare, non ti facesse uscire per due giorni di casa. Buona, buona sfortuna, buona, buona sfortuna, come te non c'è nessuna e per fortuna, amore buon viaggio. Coxo spaziale un po' particolare quello di oggi. Tu lo sai che cos'è Coxo spaziale? No. È il programma che faccio alla radio, su Radio Città Fujinko. Ah. L'hai mai sentito? Sì, no, l'ho sentito, ma facevano delle parti corte, insomma. Ma erano interessanti o poco? No, è come quelli della Rai. Ah, eh? Allora poco interessante. Che musica ti è piaciuta di più? Ah, quella che mi è piaciuta di più, quella lì che... Quella che piace a tua moglie, Grease, questa bravo. Qua che abbiamo sentito adesso, no? Bravo, sì. Bene. Tell me more, like there's the avocado. I told her we'd still be friends. Then we made our true love vow. Wonder what she is doing now. Summer dreams ripped at seams. But those Cox spaziale. Non è stato tempo perso ascoltarsi respirare, concentrarsi sull'intenso, percepirsi non morire. Fantastici. Abbiamo anche un cane. Come si chiama il tuo cane, Claudia? Chioto. È una... Beh, io vi ringrazio tanto per avermi dato, sono ancora un po' emozionata, perciò direi mettiamo un branino e io vado a beccare la tipa che magari riusciamo a portarci un po' del coro di bambini che sta facendo le loro... I bambini riusciamo? Non riusciamo? No, ma pochi. Se entrano i bambini io esco, dice.

E dunque concludiamo qui questa bislacca puntata di Coxo Spaziale, augurandovi buone feste, e poi ci sentiamo il 30, che sarebbe la settimana prossima, oppure se non ci siamo, buon anno. No. 2020, time for the guru. Ha, ha, ha. Wild, wild, smack 'em. The benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, late of Pablo Banker's Fair. What a scene! Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishopsgate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. When Mr. K performs his tricks without a sound, and Mr. H will demonstrate 10 somersaults he'll undertake on solid ground. Having been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill. Where's Los Haben here? It's okay. Where's Goings? Where's Goings? A short rest, excuse us. Come back, Jeff. Coxo Spaziale.